Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente senza voler esagerare, ma il tema resta uno e uno solo: la Brexit, intesa non tanto con quello che sta avvenendo in Gran Bretagna, per carità, siamo tutti molto interessati a capire l'imbarazzo degli inglesi, per usare un eufemismo, ma a questo punto, come si evidenziava anche ieri, il tema Brexit è sostanzialmente declinabile in quella che sarà la risposta europea, e oggi ci sono molte dichiarazioni in questo senso, cioè il Consiglio europeo e non solo. Fermo restando che Radio 24, così come il Sole 24 Ore domani, inizierà un lungo appuntamento, lungo speriamo tra virgolette di no, nel senso che Brexit, l'estate dell'incertezza, sarà sia lo speciale di domani sul Sole 24 Ore e che continuerà, quindi ogni giorno banche, pensioni, casa, risparmi, come comportarsi con i rischi di questa Brexit, o meglio, la Brexit c'è già stata, con le conseguenze di questa Brexit, e anche Radio 24 nei GR delle 7, delle 8, delle 13 e delle 19 vi sarà poi un appuntamento con le spiegazioni, le informazioni, speriamo anche i consigli pratici, al di là di tanti ragionamenti di sistema, su come comportarsi in quest'estate. Voglio dire, l'anno scorso ragionavamo di Grexit perché la Grecia era il problema, ma era un problema infinitesimamente più basso e più piccolo rispetto a quanto non sia quello che si è generato con il voto britannico. Di questo, ripeto, parleremo nel GR come appuntamento. Oggi siamo ancora alla cronaca del day by day, dell'ora per ora, più che il giorno per giorno, nel senso che le borse stanno recuperando qualcosa, attenzione, perché qua dopo le sberle prese venerdì e anche ieri, il recupero c'è, più 3,80% in Milano. Faccio notare che siamo a 15.600 punti e non a 18.000, per cui da 15.000 si è passati a 15.600, il livello pre-Brexit era sui 18.000. Per questo dà l'idea di quanto sotto siamo ancora per quello che riguarda banalmente l'indice di Piazza Affari. Faccio notare che c'è un recupero anche sulle banche, per carità, in alcuni casi, per la precisione, a maggio l'indice viaggiava tra i 18.600 punti di inizio maggio e i 17.600 di fine maggio, questo per dare le proporzioni. Sul recupero dei titoli bancari, sì, certo, UbiBanca guadagna 9,70%, FinecoBank il 6,70%, come se oggi in borsa, e poi ne parleremo, ci sia stato sì un ritorno agli acquisti, ma molto selettivo. Traduco, mentre quando c'è da vendere va giù tutto in maniera indiscriminata, e abbiamo visto, cito sempre Banca Intesa perché a detta di tutti gli operatori è la banca che ha la patrimonializzazione, quindi i requisiti richiesti dall'Europa migliori, e sicuramente in linea con i suoi concorrenti, con le banche migliori d'Europa. Anche Intesa ha perso il 30%, no? In due sedute. Oggi il recupero è molto selettivo, tant'è che alcune banche ce l'hanno in maniera forte: UbiBanca il 10%, Mediobanca il 6,80%, come Fineco, Pop Milano il 6,30%, Mediolanum il 5,50%, Intesa San Paolo il 5,40% di rialzo. Altre conoscono un recupero, se non si offendono, un pochino più di risulta, cioè sicuramente modesto rispetto ai cali degli ultimi giorni, e sempre mi riferisco per esempio al Banco Popolare, più 3,30%, per carità, in linea con l'indice, anzi un pochino sotto l'indice. Se restiamo in tema bancario, faccio notare che la Popolare Emilia Romagna perde ancora lo 0,80 BPR e Unicredit recupera solo l'1,70%, quindi meno dell'indice. Qui c'è tutto il problema della debolezza anche sul pasticcio che hanno fatto gli azionisti di Unicredit nel liquidare Ghizzoni senza avere un nome al suo posto. Dunque, ecco che mi scrive Barisone: state facendo terrorismo mediatico. Guardi, io le assicuro che, visto che sta arrivando l'estate, ci sono gli europei, la nazionale gioca bene, speriamo che giochi ancora meglio. L'ultima cosa di cui abbiamo voglia è fare terrorismo mediatico. Se lei non si è accorto che venerdì la borsa italiana ha avuto il calo più forte da quando esiste, che i titoli bancari hanno perso il 30% sostanzialmente tra venerdì e lunedì, io non so che cosa dirle, che c'è un attacco, cioè che il voto è in Gran Bretagna, ma poi le conseguenze, i cocci arrivano in Spagna e in Italia, perché quando arriva un'onda di questo tipo si va a penalizzare in maniera anche indebita, impropria se volete, paesi che nulla c'entrano con la Brexit, ma perché sono ritenuti più fragili come economie, più esposte alla speculazione. Londra ha perso poco, ma soprattutto, se andate a vedere, visto che il pound ha perso l'11%, in realtà Londra non ha perso nulla, nel senso che ha valori, attenzione, il pound, l'euro sul dollaro è a 1,10, l'euro sul pound è a 0,82. Detto questo, insomma, non vogliamo fare nessun terrorismo mediatico, ripeto, sospenderemo lo speciale, l'appuntamento, la rubrica Brexit, l'estate dell'incertezza, non appena vi sarà una risposta e sarà placata l'incertezza, risposta che non può che essere politica, lo abbiamo detto, lo ridiciamo, Mario Draghi, la Banca Centrale Europea, le cartucce le ha sparate quasi tutte e non è certo da un ulteriore intervento della Banca Centrale Europea che i mercati possono trovare tranquillità. L'unico intervento che ha un senso in questo momento è un intervento di carattere politico a livello di Bruxelles e quindi dei tre paesi in primo luogo che si sono visti ieri, Germania, Francia e Italia. Tutti stanno chiedendo sostanzialmente, anche la Mogherini si è fatta sentire, stanno chiedendo attenzione, adesso la Gran Bretagna si dia una mossa e ci faccia sapere, non possiamo aspettare, diciamo, i comodi, adesso questa la forzo io come analisi, ma insomma come definizione, i comodi di Cameron. Voglio dire, Cameron e la Gran Bretagna si dia un governo e inizi con le procedure per uscire dall'Unione Europea. Hai fatto un referendum, ma non è una questione di vendetta, come scrive qualcuno, è una questione di coerenza. Adesso va bene tutto, ma non siamo i camerieri della Gran Bretagna. Per cui hanno deciso di uscire, benissimo, secondo me è stato un errore clamoroso sottoporre un quesito come quello a livello referendario, ma è la mia personale opinione. Detto ciò, è la democrazia bellezza? Hai voluto fare referendum? Hai sbagliato ogni previsione? Non avevi addirittura un piano, un piano B? Perché qua manca anche il piano A, sono cavoli tuoi, non puoi lasciare l'Europa nell'incertezza totale perché tu dici dal 2 ottobre dopo il congresso sapremo chi è il nuovo leader dei conservatori. Ho capito, la Gran Bretagna si dia un cavolo di governo nel frattempo e inizi a ragionare su come uscirà dall'Europa. Oggi la Mogherini ha detto non esistono paesi membri a metà, cioè o sei dentro o sei fuori. Adesso non c'è nessun elemento punitivo, ma non, ripeto, non si può neanche essere le serve e le servette dei britannici. L'Europa va avanti, se ne ha la forza e si rinsaldi. 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Intanto iniziamo con le borse, perché è obiettivamente il primo giorno di recupero, speriamo insomma che si stabilizzino. Non c'è solo Milano, c'è anche Parigi che fa il 2,80%, Francoforte il 2,20%, Londra il 2,70%, il Dow Jones più 0,80%. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. E ricordo che sono sempre a firma di un vice direttore del Sole 24 Ore, oggi è la volta di Alessandro Praterotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Praterotti. Spiegarsi il rimbalzo dei mercati finanziari oggi non è facile, soprattutto viste le paure degli ultimi giorni, ma il mercato guarda lontano e anche quando ci sono rimbalzi come del 4%, come quello visto a Piazza Affari, c'è sempre una spiegazione. Il mercato in sostanza sta scommettendo non solo contro la volatilità, cioè le oscillazioni forti dei prezzi al rialzo e al ribasso, e questo si fa con le opzioni e con i titoli derivati, ma sta soprattutto raccogliendo all'interno del deserto che si è creato intorno al settore bancario quelle opportunità d'acquisto che presentano i margini migliori. Pensiamo soprattutto che i titoli del settore bancario hanno perso quasi il 50% dall'inizio dell'anno, poiché nuovi interventi di sostegno al settore bancario, a parte la liquidità della BCE, sono in arrivo, quel settore promette dei rendimenti guardando avanti. Un ultimo punto può essere investire sui titoli farmaceutici, come è successo oggi, e soprattutto sui biotecnologici. Bassissima esposizione alla Gran Bretagna, si calcola che circa l'1% dei ricavi del settore sia proprio in Inghilterra, e poi soprattutto un impegno in investimenti e ricerca che certamente non è condizionato da Brexit. Ma più in generale che cosa possiamo dire? Il mercato comincia a ragionare soprattutto su due fattori. Uno, l'Inghilterra rischia sicuramente la recessione, ma il contagio è solo politico, prima ancora che economico, perché poi l'America e l'Asia continuano a crescere per conto loro. Un ultimo punto, quando sarà tecnicamente il divorzio da Brexit? E questo è un punto interrogativo, certamente non prima di 2 anni, c'è chi dice che non avverrà mai, vista la reazione che c'è stata anche sul piano politico internazionale, ma in ogni caso un accordo andrà trovato, e questa è la scommessa della borsa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora, per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, oggi Mario Draghi sottolinea come il risultato dei G20 per aumentare la crescita economica mondiale del 2% con misure strutturali sia un esempio di come le intenzioni e le azioni possono divergere. Cosa dice Draghi? Dice che dopo i vari incontri dei G20 le conseguenze, cioè il risultato concreto, è stato molto molto deludente. È in contrasto con quanto avvenuto nel caso del coordinamento globale dell'azione di bilancio 2008-2009, cioè dice Draghi, nel 2008-2009 l'azione congiunta delle principali economie del pianeta fu un successo ed ebbe la capacità di arginare quello, ricordate insomma, tra fine 2008 e inizio 2009, dopo Lehman Brothers, cosa stava capitando. Ora invece no. Cioè, c'è uno scarto molto forte tra le intenzioni, lo dice testualmente, e le azioni. Central banks should give up on pursuing their domestic price stability mandates. Le banche centrali non devono abbandonare l'obiettivo di stabilità dei prezzi. Abbiamo dimostrato con i nostri strumenti non convenzionali che è possibile progettare condizioni finanziarie accomodanti anche quando il tasso di interesse e di equilibrio è basso. E abbiamo dimostrato che questo può essere efficace nel sostenere la domanda interna e alimentare pressioni interne sui prezzi, anche quando venti contrari disinflazionistici soffiano dall'economia globale. Potremmo non avere bisogno di un coordinamento formale delle politiche, ma siamo in grado di beneficiare di allineamento delle politiche. We can benefit from alignment of policies. E quindi ha aggiunto appunto anche Draghi: attenzione alle svalutazioni competitive che danneggiano l'economia mondiale. I tassi di cambio fluttuanti non garantiscono più l'autonomia della politica monetaria interna. È andato avanti anche su altri temi. Faccio notare però che oggi vi è stata, sempre a proposito di banche centrali, la Bank of England, la banca centrale inglese, ha dato 3 miliardi di liquidità alle banche britanniche per far fronte alle turbolenze. Evidentemente, secondo l'ascoltatore, anche la banca centrale inglese sta facendo terrorismo mediatico, no? Io non so, certa gente. E le ha date appunto per come prima tranche, non è che con 3 miliardi di sterline tu possa fare granché. La banca centrale britannica aveva già messo all'asta denaro liquido in emergenza nelle ultime 2 settimane. La settimana scorsa ha piazzato 370 milioni di sterline, quella precedente 2,4 miliardi, quindi queste 3 miliardi vanno a sommarsi a 3 miliardi già messi nelle settimane pre-voto. La Consob tedesca, la BaFin, invece nutre perplessità sul fatto che dopo la Brexit Londra possa essere la sede della super borsa nata da un accordo tra London Stock Exchange e Deutsche Börse. Poi cerchiamo di capire, visto che la nostra borsa appartiene alla borsa di Londra, se vi siano dei problemi anche per la borsa di Milano. Parleremo della riunione del Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo oggi a Bruxelles, dopo il vertice di ieri a tre tra Merkel, Hollande e Renzi. Sul tavolo ci sono anche i possibili piani di emergenza per il sistema bancario, fondamentali per noi, perché tutto l'attacco che l'Italia, oltre che la Spagna, sta subendo riguarda, prende di mira quello che è considerato il ventre molle, cioè le sofferenze bancarie e la possibilità per le banche italiane di reggere senza nuovi aumenti di capitale. C'è chi ha stimato in 40 miliardi l'ammontare degli aumenti di capitale. La domanda è: dove cavolo li troviamo 40, dove le trovano le banche italiane 40 miliardi in questo momento nel paese? Tant'è che anche il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, dice: stiamo monitorando la situazione da vicino per quello che riguarda l'Italia e siamo in stretto contatto con le autorità italiane in merito a possibili passi da fare. Ci sono diverse modalità di azioni possibili che sono ancora oggetto di discussione e non posso aggiungere dettagli. Evidentemente anche Dombrovskis, secondo il nostro ascoltatore, sta facendo terrorismo mediatico, così come il premier Matteo Renzi, che ha detto siamo pronti a fare tutto il necessario se servirà per garantire la sicurezza dei risparmiatori italiani e dei cittadini. Il governo italiano avrebbe lo studio un ventaglio di misure, si ragiona con Bruxelles tra l'altro di sospendere per 6 mesi il bail-in, già sarebbe qualcosa, perché tutti sti geni che mi scrivono si sono dimenticati che dal 1 gennaio c'è il bail-in, per cui se capita qualcosa a una banca italiana, lei che ritiene che noi facciamo terrorismo mediatico, se ha più di 100.000 euro sul conto corrente rischia di dover contribuire al dissesto della banca nella parte eccedente 100.000 euro, ok? E non è un dettaglio, visto che fino al 31 dicembre non era così, arrivavano i salvataggi pubblici da sempre e a quel punto tu potevi fregartene, i tuoi risparmi erano garantiti. Dicevo, si sta ragionando di una sospensione temporanea del bail-in e quindi poi via libera al sostegno pubblico che avverrebbe sotto forma di ricapitalizzazione attraverso le obbligazioni. E poi sarebbero necessari appunto 40 miliardi di euro. Si potrebbe creare anche un fondo Atlante bis, visto che il fondo Atlante con Pop Vicenza e Veneto Banca si è già bruciato i 2/3 del capitale, a disposizione, dedicato principalmente all'acquisto dei crediti deteriorati, quindi dei non performing loans, delle sofferenze bancarie. Una garanzia a questo punto della Cassa Depositi e Prestiti dei privati su un nuovo giro di aumenti di capitale. Faccio notare che prima di oggi il calo di Intesa San Paolo era del 31%, di Unicredit del 30%, del Monte dei Paschi del 27%, UBI 25%, fuori dall'Italia BNP Paribas ha perso tra venerdì e lunedì il 22%, Royal Bank of Scotland il 30%, Société Générale il 30%, Deutsche Bank il 20%, Credit Suisse il 23%. Chiaro è che il tema delle sofferenze, vedo già molti messaggi, sì, sarebbero aiuti pubblici alle banche, ma ricordiamoci anche che al di là dei casi che abbiamo raccontato, Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Etruria, Marche, Ferrara, Chieti e altre banche in cui alcune sofferenze erano dovute alla cattiva amministrazione dei vertici che prestavano soldi agli amici, degli amici, senza, e nel caso di Veneto e Popolare di Vicenza c'è dell'altro, obbligavano i correntisti a comprare azioni se volevano un mutuo o un prestito. Nella maggior parte dei casi queste 200 miliardi di euro di sofferenze bancarie sono dovuti al fatto che l'Italia ha avuto un crollo della produzione industriale in questi anni, cioè nella maggior parte dei casi le banche hanno prestato soldi a imprese che poi si sono trovate in difficoltà o hanno chiuso o sono in estrema difficoltà. Cioè noi siamo ancora sotto di un 15% rispetto ai livelli produttivi del 2008. Non possiamo far finta che la crisi non abbia colpito pesantemente anche la struttura manifatturiera dei servizi italiani, quindi hanno prestato soldi e non li rianno anche e soprattutto per la crisi, al di là delle malefatte di alcuni banchieri. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo con il primo tema: che cosa deve fare l'Europa? Sveglia Europa, titolava Il Sole sabato mattina, Vediamo se la paura farà 90 e riuscirà a dare uno scatto d'orgoglio, oltre che di reni, a questa Europa particolarmente slabrata. Professor Giulio Sapelli, buonasera. Buonasera amico mio, non ho sentito la mia musichina. No, è cambiato tutto e quindi anche Carmina Burana, anche Carmina Burana. Questi sono i Sex Pistols con... Non so cosa siano, io non... Era un gruppo anarchico, britannico, non immaginavo che lei... siano anarchico. Lei non poteva sapere che fosse questa musica moderna, è musica anni 80, Sapelli, però... No, vabbè. Non ho avuto giovinezza, amico mio. Questo quindi... l'avevamo vagamente intuito. Allora, senta Sapelli, in primo luogo andiamo poi a stringere sui temi, ma che cosa dovrebbe fare l'Europa? Alcuni mi stanno scrivendo, va bene, non dobbiamo essere i camerieri dell'Inghilterra, ma neanche i camerieri della Germania. L'abbiamo detto molte volte e in tempi non sospetti di come la Germania ci stesse portando in un vicolo cieco a sbattere, però neanche fare i camerieri dei britannici, o no? Ma guardi, i britannici non sono mai stati i nostri camerieri. No, noi camerieri dei britannici. Ah, noi camerieri britannici, ma noi, devo dire, l'unica cosa positiva che c'è stata in Europa è stato i 6 mesi della presidenza britannica. Lasciamo perdere le privatizzazioni, su cui io ho molti dubbi, come lei sa, ma però ha portato un po' di buona governance, di regole, di accountability, di transparency, di disclosure nel capitalismo denaro che è retto dagli inciuci. Lei ha raccontato prima delle cose esilaranti sulle banche, ma io potrei raccontargliele su altre banche e anche sull'industria. Questo capitalismo oscuro, dove gli azionisti non contano nulla. Lei parla di Renano, vuol dire tedesco, lo dico a tutti. Renano vuol dire franco tedesco, contro Michel Albert, che scrisse un famoso libro su questo punto. Quindi gli inglesi ci hanno dato solo, a parte, ripeto, la frenesia liberista, che è una cosa di quel poveretto, di quel povero uomo che aveva scambiato il laburismo per il liberismo, quindi era, che si chiamava Tony Blair. Infatti si vede la fine che ha fatto. Si chiama, è vivo. Sì, è vivo, ma è praticamente morto, come Clinton, diciamo così, e ha ucciso la socialdemocrazia europea, anche il partito laburista inglese, perché l'ha ridotto a una larva. E gli inglesi, da loro sono venute solo delle cose positive, devo dire, perché l'Inghilterra è una potenza transatlantica, non si è mai occupata dell'Europa, se non quando c'è stato da difendere l'Europa da dei dittatori, Napoleone, Hitler, e quindi è intervenuta negli affari europei. E poi giustamente non è entrata nell'euro e ha dovuto accettare, per garantire un ponte con gli Stati Uniti, se no senza il quale l'Europa non esisterebbe, di aderire in qualche modo all'Unione Europea. Sì, però, secondo Sapelli, me facendo un grande errore. Ma adesso io capisco che lei sia contento per la Brexit, però vorrei capire adesso dal punto di vista europeo. Cioè lei... Dal punto di vista europeo, no, nel senso bisogna che la domanda, l'Europa, negare l'Europa. Sì, no? Ma la domanda è adesso. Dimmi. Noi stiamo ad aspettare i comodi britannici, lo dico con massimo rispetto perché in Gran Bretagna ho lavorato e conosco tutte le virtù dei britannici, lo dico seriamente in questo caso. E aspettare oppure, come ha chiesto la Mogherini, come hanno chiesto Hollande, Renzi, e un po' titubante, poi si è convinta anche la Merkel, si dice no, se sei fuori, sei fuori, noi andiamo avanti e stringiamo il nocciolo duro. Cioè, cameriere degli inglesi vuol dire non possiamo aspettare i comodi degli inglesi, perché no, è palese che loro non avessero un piano B. Dunque, io penso che lei senta il fascino della dittatura, che naturalmente è nello spirito demoniaco tedesco, che riaffora nei momenti di crisi. Ma che dittatura? Ma lascia perdere, fammi finire. Voglio dire, c'è un trattato di Lisbona, l'articolo 50, l'ha ricordato oggi in un'intervista bellissima Valerio Scardestegna, un giornale italiano filo tedesco, come il Corriere della Sera, che si è inventato Monti e poi è scritta su ordine di Berlino per certi versi, mi piace, perché così faccio meno di leggere la Frankfurter Allgemeine, che poi faccio molto più fatica, leggo il Corriere, è la stessa cosa, che ha detto chiaramente c'è un trattato, c'è l'articolo 50, rispettiamo i trattati. Adesso cosa ci mettiamo in mente? Che noi non rispettiamo neanche più i trattati e diciamo a una grande potenza come quella inglese, che ha la bomba nucleare e poi ha la Magna Carta soprattutto, che ci insegna che cos'è il rispetto della legge e della democrazia, che cosa deve fare. Ma datevi una calmata, ragazzi. Allora, professore, resti con noi, perché vedo che insomma l'aver levato la sua musica e Carmina Burana l'ha reso ancora più frizzante. Io non sono quasi per nulla d'accordo con lei questa volta, ma ci sta, si chiama democrazia anche questa. Resti con noi perché ho il meteo e la pubblicità, poi arriverò in diretta, dico agli ascoltatori che dopo avremo anche chi darà dei consigli ancora più pratici sui risparmi, su cosa fare, gli investimenti, però prima voglio affrontare il tema politico, perché ripeto, anche per i mercati, su questo magari Sapelli possiamo essere d'accordo, la risposta in questo caso può essere solo politica, non certo, certo Mario Draghi. Certo, certo. Un punto di caduta, che detto a un uccellaccio è quasi un'offesa, ma un punto di caduta l'abbiamo trovato. Dopo il meteo vorrei restare sul tema di quella che dovrebbe essere la risposta europea. 349-238-6666 su SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti, giustamente mi hanno corretto molti ascoltatori, i Sex Pistols erano degli anni 70, avete ragione, sono un gruppo anarchico che diede via al movimento punk, così professor Sapelli l'aggiorno su cose che lei non ha visto volando troppo in alto. Infatti la canzone dice God save the Queen, the fascist regime, il regime fascista, così traduciamo tutto. Allora andiamo avanti invece. Dica. Sapelli, il problema è questo. Il punto di vista per nostro, nel senso che l'abbiamo scritto sul Sole, lo diremo in radio con lo speciale Brexit, l'estate dell'incertezza, è che a questo punto non è tanto che non si debba fare i camerieri degli inglesi, ma occorre uno scatto di reni, dire bene, la Gran Bretagna ha votato, adesso noi andiamo avanti per i fatti nostri, e chiediamo alla Gran Bretagna di non lasciarci in impasse, in ballo, con attacchi speculativi, che poi vuol dire i cocci sono spagnoli e italiani, il voto è inglese, però le banche che crollano sono quelle italiane, perché obiettivamente sembra quasi oltre il danno la beffa. Hai votato, adesso dici velocemente quando inizi ad avviare le procedure per uscire. Mi dispiace se Cameron non avesse pensato a una soluzione B, nessuno l'ha pensata, Farage non l'ha pensata, Corbyn è in difficoltà, Cameron si è dimesso ma vuole fare il congresso a ottobre. Sentiamo Juncker, di cui molti chiedono le dimissioni, poi voglio sapere se si associa anche lei. Io personalmente sono dell'idea che Juncker se ne debba andare e basta, perché è tutto inadatto al ruolo, per l'età, per il paese che rappresenta, il microscopico Lussemburgo, per il fatto che per 13 anni è stato un paradiso fiscale quel posto lì, per il fatto che ha un atteggiamento iper democristiano. Comunque Juncker... Alors que tout le monde dit il faut tout changer sans dire ce qu'il faut changer. Mentre tutti dicono che bisogna cambiare senza spiegare cosa va cambiato, la Commissione si è unita grazie alla forza di questo Parlamento di perseguire quella visione che abbiamo dato a novembre del 2014. Bisogna cambiare tutto? Sì, ma non bisogna cambiare l'essenziale. E l'essenziale è che l'Europa resti un progetto di pace e un progetto di avvenire. Ed è a questo che mi impegno davanti a questa Assemblea. Non sono né stanco né malato, come hanno scritto i giornali tedeschi. Resto quello che sono. Combatterò fino al mio ultimo respiro per un'Europa unita. Allora, Juncker poi ha continuato e ha detto: Londra rispetti la volontà del suo popolo, niente giochi, sono inammissibili tentativi di negoziati segreti. Ha detto: questo è inammissibile. Ho dato un ordine presidenziale da Mufti, così ha detto, ai miei direttori generali di evitare ogni contatto con i rappresentanti di Londra. E poi Angela Merkel, vi aggiorno anche sul Consiglio europeo, ha detto nessun colloquio con Gran Bretagna senza una richiesta formale di uscita. Non potrà iniziare nessun colloquio informale se la Gran Bretagna prima non ci manderà la richiesta formale di uscita. Non può mantenere i privilegi senza gli obblighi. No a contatti, sempre Angela Merkel, informali con la Gran Bretagna, che resta un'amica. Ma alla prima occasione possibile, al primo vertice dell'Unione Europea, Cameron venga a presentare la sua valutazione. E poi ancora Gabriel, che il ministro dell'economia tedesco, Sigmar Gabriel, ha detto: non ho mai visto un politico come Cameron e mai visto una campagna così orribile. Ancora, insomma, la richiesta della Mogherini, adesso vi do gli ultimi aggiornamenti da quello che sta uscendo dal Consiglio europeo. Tusk, il presidente, dice adesso è inappropriato incontrare il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon, che sappiamo vorrebbe fare un referendum e uscire dalla Gran Bretagna per restare in Europa. E poi la Mogherini ha detto i cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di sapere in che unione vivranno. E poi il vertice si sta orientando per accogliere con favore la presentazione da parte della Mogherini della strategia per la politica estera di sicurezza. Insomma, oggi, tra ieri e oggi, la richiesta è adesso vieni, inizia le trattative e poi ragioniamo. Cos'è che non va in questo atteggiamento che una volta tanto sembra un atteggiamento un po' di consolidamento di un'Unione Europea che sembra un po' più unita nei confronti della Gran Bretagna? Sapelli. Caro Barisoni, bisogna vedere su che cosa si è uniti. Quello che sta capitando è che sono completamente pazzi, sono dei bambini. Ma cosa vuol dire i valori della... Ma lei sa quali sono i valori europei? Mm-hmm. Cosa sono i valori? L'unico valore europeo condiviso è il cristianesimo. Poi non abbiamo una lingua comune, non abbiamo niente in comune, non abbiamo per nostra fortuna un sistema fiscale comune, non abbiamo ancora fatto delle follie come il ministro della Finanza Unica. Ma come si fa a parlare così davanti a una grande potenza? Ma un tempo gli uomini politici parlavano il meno possibile, adesso hanno cominciato ad imitare i banchieri centrali, sulle questioni delicate parlano tutti i giorni, lei sa che cosa penso io di questo Draghi che parla tutti i giorni e degli altri banchieri centrali che un tempo parlavano una volta solo all'anno quando facevano la loro relazione. È cambiato il mondo, Sapelli, su questo. È cambiato in peggio il mondo perché l'Europa così com'è si rivela essere una follia. Allora, cosa vuol dire che non dovete parlare con i funzionari britannici? Ma chi sono per dare questi ordini? Quando l'Europa mi faccia finire. Il Parlamento, l'unico che può dare degli ordini è il Parlamento europeo, giusto? Perché l'hanno eletto i cittadini europei e il Parlamento europeo non ha nessun potere. Ma chi sono questi qui che si riuniscono in 28, loro i ministri e gli ambasciatori, quindi sono più di 60 persone? E poi dopo decido, adesso la discussione è, deve essere intergovernativo oppure internazionale tra le nazioni? Ma di cosa si sta parlando? Questa è la volta buona per fare un esame di coscienza e chiedersi come mai una delle grandi potenze del mondo, uno dei fari della civiltà, ha abbandonato l'Unione Europea. E invece questi si limitano a discutere se devono andarsene subito o no e danno ordini ai loro funzionari di non parlare con gli inglesi. Ma stiamo dando i numeri questi qua, ma questi sono dei bambini. Ma non sanno che la diplomazia ha sempre avuto due livelli, uno le cose che dicevi al popolo, alla plebe, e l'altra ciò che facevi. Ma dove vivono? E questi sarebbero dei leader europei? Ma ragazzi, sono dei bambini, ragazzo mio. Allora, come si chiamano in piemontese i bambini? Che non me lo ricordo più. Facciamo Murfel o Gagno? Sono a Gagno. Poveri Gagno. Lì e pensano di comandare. Ma scusa, anche la signora Merkel cambia vestito ogni giorno. Per esempio, che abbia un vestito della Wehrmacht coperto da quella giacchina, da quei pantaloni. Voglio dire, già impersonifica lo spirito militare. Su questo non posso essere in disaccordo con lei. Sul resto però io non ho ancora capito e le chiedo ancora un minuto di pazienza. Sì. Che cosa, adesso torno a essere serio, però che cosa dovrebbe fare l'Europa? Perché, un attimo solo Sapelli, però è anche vero, a mio avviso, sa quanto io critichi la Germania da 4 anni? C'è chi dice che dovrei andare allo psicanalista, probabilmente non freudiano a questo punto, ma cioè per quanto io sono ossessionato dalla Germania. Ma questa volta non è il tema della Germania. Io sono d'accordo sull'esame di coscienza che dobbiamo farci, perché abbiamo detto in tempi prima ancora del referendum, se si arriva a questo punto, l'esame di coscienza che la leader di questa Europa, la Germania, dell'area euro, dovrebbe farsi è enorme, perché insomma non puoi pensare che siamo l'area che cresce meno, che ha avuto la seconda recessione, che si sta sfaldando, è la Brexit, e tu come Germania non ti fai mai un esame di coscienza. Detto questo, però, in queste ore si sta ragionando su che atteggiamento tenere con la Gran Bretagna. Lei non ritiene che la Gran Bretagna non possa dire ne riparliamo a ottobre? Cameron ieri ha detto ma io comunque vorrei restare dentro la parte monetaria dell'Europa, cioè, insomma, come se stessero cercando di non riconoscere un voto referendario, e che l'Europa abbia anche un moto d'orgoglio legittimo nel dire ma scusate, adesso no, ci dite come procedete, perché avete fatto un referendum, l'avete voluto, lo avete votato e mo ci dite come procedete. Questo a me non sembra sbagliato, però vorrei capire che cosa dovrebbe fare l'Europa a questo punto dopo il traffico. Focus Economia. La Gran Bretagna si appresta a lasciare l'Unione Europea, ma vorrei che questo processo e il risultato finale fossero il più possibile costruttivi. Non dobbiamo voltare le spalle all'Europa. Questi paesi sono i nostri vicini, i nostri amici, i nostri alleati, i nostri partner. Spero vivamente che ricercheremo i rapporti più stretti possibili in termini di commercio, cooperazione e sicurezza, perché ciò è positivo sia per noi che per loro. E spero che questo sia lo spirito con cui si svolgeranno le discussioni di oggi. Allora, dai Sex Pistols ai Clash, tanto per lei Sapelli è arabo, però quello che ha sentito è Cameron prima di entrare al Consiglio europeo. Allora, che cosa dovrebbe fare l'Europa e se secondo lei la Gran Bretagna si sta comportando, diciamo, in maniera, posso usare il termine corretto? Prego. Dunque, allora, brevissimamente, se mi lascia esprimere compiutamente e rapidamente il mio pensiero. Primo, c'è stato un crollo di credibilità e di legittimazione dell'establishment politico inglese. Perché se un establishment politico è talmente pazzo da sottoporre a referendum una questione così delicata come l'entrata e l'uscita dell'Europa, vuol dire che c'è una crisi anche nella rappresentatività democratica inglese. Quindi questa crisi degli establishment, dell'elite, ha colpito anche l'Inghilterra, e questo è molto pericoloso. Quindi bisogna capire questo fatto. Seconda cosa, l'Europa deve prepararsi, deve preparare i suoi funzionari, deve dire ai suoi funzionari di cominciare a preparare gli accordi commerciali, se non riusciamo a farli col solito metodo ricorrendo a quelli del mercato comune e poi a quelli del 73, ricorriamo a quelli del WTO, che sono da proporre, e si spera che l'Inghilterra faccia lo stesso, per cui i flussi commerciali continuino anche con l'Inghilterra. Questa è la cosa che mi preoccupa di più. Seconda cosa, l'Europa non deve fare quello che stanno facendo i tedeschi in merito alla borsa. Naturalmente le banche tedesche e la borsa tedesca ha sempre visto malamente questa fusione con Londra, perché Londra gli avrebbe imposto dei criteri di accountability e di trasparenza che i tedeschi non hanno nella loro borsa, nel loro sistema economico. Quindi trovo veramente assurdo non mantenere questo accordo, perché anche se è stata questa divisione, che in primis, lo ricordo, politica non è una visione economica, è una visione, un soprassalto di patriotismo, di senso di sovranità nazionale, di pancia, che va bene, perché sa, se è un sistema democratico a rivendicare la patria, impedisce che si rivendichi una cosa pericolosa, che era quella che Ben Johnson chiamava la nazione, il nazionalismo, era il rigurgito invece dei mascalzoni. Allora, se non vogliamo che l'Europa capiti nelle mani della destra, allora saranno veramente guai, perché voi, quello che voi chiamate, sbagliando, populismo, che non c'entra niente, invece è un rigurgito di destra, neofascista, perché questi sono dei neofascisti. I populismi è un movimento sudamericano che ha tante luci e tante ombre, quindi sarebbe ora di finirla di usare questo termine che non vuol dire niente. Bisogna fare in modo che si continuino a avere rapporti commerciali rapidamente, che questa cosa della borsa si vada a compimento, perché non si può tornare indietro, perché sarebbe una ferita insanabile, capito? Perché ci serve l'Inghilterra? Perché bisogna da un lato trattenere l'Inghilterra a rapporti con l'Europa, se no questi vanno coi cinesi, e poi soprattutto l'Europa ha bisogno del rapporto con gli Stati Uniti. Io, per quello che sono preoccupato, e di questo rigurgito di autoritarismo franco-tedesco, a cui devo dire il nostro primo ministro si è giustamente distaccato, Matteo Renzi si sta comportando molto bene secondo me, e che noi rompiamo i legami con gli USA, che sono l'unica garanzia perché l'Europa continui a rimanere una grande potenza. Se ci distacchiamo dagli USA siamo spianati dall'ordoliberalismo tedesco, e Ecco, quindi bisogna fare con grande calma, bisogna creare calma e ragionevolezza, non diffondere panico. Calma e ragionevolezza, che sono quelli che sì, hanno il panico, politici. Però Sapelli, un'ultima battuta. Come? Però adesso parleremo di banche con Moria Longo, che è già qui in studio. Però il problema è che il 30% le banche europee e spagnole l'hanno perso veramente tra venerdì ma e lunedì. Amico mio, no, quello che voglio capire, Sapelli, noi stiamo qua a aspettare tutte le ondate che ci stanno arrivando addosso di quella cosa che assomiglia alla cioccolata, ma non è esattamente la stessa cosa. In attesa che, diciamo, la diplomazia lavori, no, sì. Non è una battuta, è il suo suggerimento. Cioè, noi stiamo qua a beccarci tutti i ribassi di borsa, tutte le speculazioni. No, Mucao che scrive sul Financial Times che l'Italia è a rischio. Scusami, caro. Senti, Sebastiano, tu hai già detto una cosa molto importante prima. Il problema non è la Brexit, ma è la caduta del PIL, è l'ordoliberalismo che si fa collare le banche. Che abbiamo perso 15 punti di PIL, in tutta Europa ne abbiamo persi 28, grazie alla deflazione tedesca, che sta spianando l'industria europea e sta portando bassi salari e bassi costi dei beni intermedi. Ecco, allora questa è la crisi. Allora, la cosa che dovrebbe fare l'Europa, sai cosa dovrebbe fare con le banche? Poi Moira Longo ti dirà cosa pensa lui, che è un grandissimo esperto, naturalmente, e che io stimo molto e che leggo sempre. La cosa che dovrebbe fare? Dovrebbe richiedere di concedere agli altri paesi di fare ciò che i tedeschi hanno fatto nel 2008-2009. Dobbiamo nazionalizzare le banche. Bisogna finire, quello che hanno fatto loro con Commerzbank è stata nazionalizzata più volte. Giusto? Poi loro non fanno neanche fare gli stress test. Quindi la prima cosa che l'Europa deve fare è dire regole uguali per tutti, rispettate la regola sul commercio estero e le regole bancarie, non è che si fanno solo quando vi fa comodo, perché loro perché non vogliono farlo? Perché ci vogliono continuare la campagna d'Italia, i francesi loro vogliono prenderci tutto il sistema bancario, come stanno facendo già col sistema industriale Telecom Docet. Ecco, allora, guarda, io lo dico agli ascoltatori, chiamano sempre Guelfi e Ghibellini. Io su alcune cose non sono d'accordo con Sapelli, su altre totalmente, ma non solo perché le dice lui, ma anche perché modestamente continuiamo a far notare da ben prima della Brexit il diverso trattamento che la Germania ha avuto su se stessa, su Deutsche Bank, Commerzbank, sulle casse di risparmio locali e quant'altro, e rispetto al bail-in. E infatti, adesso dopo, nel ringraziare Giulio Sapelli, che è sempre uno stimolo, di qualunque tipo, ma è uno stimolo, e ringrazio Giulio Sapelli, poi parleremo proprio di quello che è l'iniziativa europea sul fronte bancario, cioè l'attacco speculativo in questo momento si concentra sulle banche, e allora hai una risposta politica senza attendere i trattati, in questo caso sì, con la Gran Bretagna, puoi dire tranquillamente, signori, adesso le banche, sospendiamo il bail-in per 6 mesi, diamo le garanzie pubbliche, CDP o che cavolo vuoi tu, sulle non performing loan, sulle sofferenze, poi ne ragioniamo, e così tutti gli speculatori si tranquillizzano. Su questo, d'accordissimo con il professor Sapelli, che lascio con i Clash anni 80, lascio la linea GR24, poi parliamo con Moria Longo e con Giovanni Tamburi di cosa fare sulle banche e sui propri investimenti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30. Su Radio 24. Focus Economia. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al di là dei moltissimi commenti che stanno arrivando, scusatemi, sulla dichiarazione del professor Sapelli, che voglio dire, è uno spirito libero, dice quello che pensa, delle volte siamo d'accordo, delle volte non siamo d'accordo, ragazzi. Detto questo, andiamo alle banche, perché Sapelli diceva una cosa importante. Lasciate stare gli inglesi, sintetizzo. Lasciate stare gli inglesi, non pensate nemmeno di iniziare a usare il pugno di ferro con un paese come la Gran Bretagna, fate la diplomazia sotto banco, cercate di riportarli dentro con accordi che si fanno anche con altri stati in modo da non farsi un danno economico. Nel frattempo, quello che deve fare l'Unione Europea, invece che fare la faccia feroce con la Gran Bretagna, deve dare a tutti gli stati, a tutte le banche degli stati, le stesse possibilità che ha avuto la cara Germania, che ha colto l'opportunità nel 2009, perché si poteva fare, di salvare e nazionalizzare le sue banche. Lo dimenticano sempre i tedeschi quando parlano, ecco perché sono in malafede, a mio avviso. È un popolo, in questo momento, politicamente parlando, cioè una classe politica, quella tedesca, in malafede, perché a suo tempo vendette sommergibili, prestò soldi a Iosa, la Grecia, e poi i greci diventarono brutti, sporchi e cattivi. E le tangenti però le pagò la Siemens, i sommergibili senza missili vennero venduti dalle fabbriche tedesche. Poi diventano brutti, sporchi, cattivi tutti quelle banche che hanno sofferenze bancarie, dimenticano i tedeschi che hanno utilizzato 110 miliardi di euro per salvare le loro banche a suo tempo, che arrivavano a 140 con le ultime operazioni. 140 miliardi! Ora, cavolo, no? Aver lezioni di morale da chi ha messo 140 miliardi per salvare Commerzbank, Deutsche Bank, le Sparkasse, dove c'era quella commissione tra politica del territorio, banche del territorio, avevano prestato pure i soldi, e poi viene a fare, cioè, capito? Insomma, dalla peripatetica uno può accettare tutto, ma non lezioni di etica, Peripatetica. Allora, Moria Longo, su questo si stanno indirizzando le ipotesi, perché l'attacco speculativo dovuto alla Brexit arriva a Spagna e Italia e arriva sul fronte delle sofferenze bancarie. Oggi dal Financial Times, ieri, scrive Munchau, ecco, l'Italia è il paese a rischio, il paese che è pronto a crollare. Munchau mi fa quasi rispolverare il vecchio gufo, ma Moria, le ipotesi su cui si sta ragionando. Allora, è evidente che c'è stato un eccesso di speculazione sulle banche italiane, una speculazione che nasce dal fatto che non si può più andare a speculare o comunque a vendere a rischio Italia sui BTP, perché quelli sono protetti dagli acquisti della BCE, quindi nessuno specula più sui BTP, non c'è più il tema dello spread come nel 2011. Oggi la cosa più simile ai BTP sono le banche, non solo perché in bilancio hanno tanti BTP, quindi sono molto legate al rischio Stato, ma anche perché sono istituzioni molto legate all'economia del paese. Se c'è una recessione, le banche soffrono. Siccome si teme una recessione, si vendono le banche per coprirsi a rischio Italia. Quindi c'è stata una vendita fortissima nei giorni scorsi, per fortuna oggi rimbalzano proprio sulle banche, non solo per i loro problemi specifici, cioè le sofferenze eccetera eccetera, ma anche proprio perché erano a rischio Italia, quindi si vende quello. Quindi pancia hanno anche molti titoli italiani oltre che avere sofferenze. Questo va detto, ha ragione Moria. Per cui, siccome c'è stato un eccesso di bufera sulle banche che già crollavano prima, scendevano prima in borsa, no, prima di Brexit, scendevano comunque da tempo che hanno avuto problemi in borsa. Però questo è molto eccessivo. Tra l'altro, se la borsa è così violenta, le banche che devono fare aumenti di capitale, ce ne sono, non possono farle. Le banche che devono vendere crediti in sofferenza, ci sono delle operazioni su cui si sta lavorando, ma non possono farle in un momento di mercato così stravolto. È evidente che questa situazione di mercato rischia di tradursi poi in una situazione di sofferenza reale per le banche, ulteriore rispetto ai problemi che già hanno, che diventa poi una sofferenza per il paese, quindi una nuova recessione. Quindi dalla finanza il rischio che si vada all'economia reale è molto forte. Quindi qual è il punto? Il punto è riuscire ad arginare questa valanga di vendite, questa valanga finanziaria che si è abbattuta sulle banche italiane per colpa di un referendum inglese, cioè, il che fa anche abbastanza sorridere. E come farlo? Il problema è che dal 2016, lo sanno tutti, c'è la normativa sul bail-in, cioè per salvare una banca bisogna prima bruciare i soldi dei risparmiatori azionisti, obbligazionisti e poi correntisti sopra 100.000 euro. Quindi ovviamente questa non è una strada percorribile. Però qual è la scappatoia? La stessa normativa sul bail-in prevede, ed era già scritto, che in casi eccezionali per evitare crisi sistemiche si potesse sospendere la normativa sul bail-in e comunque salvare le banche con aiuti di Stato o comunque aiuti pubblici, perché il bail-in non deve essere un kamikaze. Cioè Abbiamo già avuto tanti esempi in Europa. Ecco. Penso al Fiscal Compact, quella genialata tedesca, che aumenta la recessione, quindi è prociclica, perché tu vai a stringere, a tagliare nel momento in cui dovresti investire e spendere. C'è qualcuno che mi dice, poi rispondo anche sui tedeschi. Vai avanti, Moria. No, allora, quindi la trattativa che stanno cercando di fare alcuni paesi, tra cui Renzi, è quella di chiedere la sospensione almeno per 6 mesi della normativa sul bail-in, facendo appello a queste condizioni eccezionali che oggettivamente si sono verificate non per colpa nostra, ma per un referendum. Dopodiché, a quel punto, una volta sospeso il bail-in, si può ragionare su come intervenire per aiutare alcune banche in difficoltà, o può essere con una ricapitalizzazione diretta da parte dello Stato o dal Fondo Salva Stato Europeo, oppure con garanzie pubbliche o tramite la Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, poi le modalità tecniche possono essere varie e si può studiare caso per caso. Quello che è importante è la premessa, cioè che venga sospesa la normativa sul bail-in, altrimenti non si può ragionare su nulla. Allora, è questo perché, allora, cerco di far capire di nuovo a tutti, quando tu sei sotto una tempesta, immaginate una barca, è difficile sistemare le singole cose se devi pensare a tenere e la barca ondeggia. In questo momento le operazioni di aumento di capitale, in alcuni casi, per fortuna il Banco Popolare l'ha condotta a termine bene, ma ci sono operazioni di cessione delle sofferenze, cioè quei crediti che non ti ritornano li stanno cedendo, altre operazioni, tutto questo si blocca, perché quando il tuo titolo perde un terzo del suo valore in borsa in 2 giorni, ma che vuoi fare di operazione? Niente. Allora l'ipotesi è: stabilizziamo un attimo, blocchiamo la speculazione e chi attacca le banche italiane e spagnole, perché sia per le sofferenze, ma sia perché essendo italiano e spagnolo sono pieni di titoli di Stato italiani e spagnoli, il gioco è facile e poi magari si ricomprano a prezzi di strasaldo. E poi a quel punto si può intervenire caso per caso, la banca che ce la fa a collocare le sofferenze perché le ha di qualità buona sul mercato, non ci perde troppo, andrà avanti da sola, quell'altra avrà bisogno invece di... Sì, più che altro sono le ricapitalizzazioni. Di ricapitalizzazione, però con una situazione di mare, non più in tempesta. Cucinare con il mare in tempesta è dura. Soprattutto mangiare. E anche mangiare. Allora, faccio notare che oggi tutti parlano di recupero e quindi saluto intanto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento un altro ospite mitico, nel senso che viene da tanto tempo, e mi riferisco a Giovanni Tamburi. Buonasera dalla Tamburi Investment Partners, buonasera Tamburi. Tutti parliamo di recupero, pian col fagian, nel senso che non è un'espressione finanziaria, poi la spiego. Più 3,30% quando hai perso, le banche hanno perso il 30% in 2 sedute, che recupero è? Un rimbalzo, spero non del gatto morto. Più 2,60 Parigi, più 1,90 Francoforte, più 2,60 Londra, Dow Jones più 0,80. Che sia un recupero molto selettivo lo capiamo anche dai titoli, perché è vero che UbiBanca ha recuperato il 9% e Pop Milano il 5,60, Intesa San Paolo il 4,70, però ha perso il 31% in 2 giorni, e vado sulle banche ancora, Mediolanum il 4,16, ma attenzione, Popolare Emilia Romagna alla fine chiude con un meno 2,40%, Unicredit perde anche oggi l'1,50%, il titolo Unicredit, complice anche la genialata di cacciare Ghizzoni senza avere un nome, è a 1,87 euro, ha perso in un anno oltre il 70% del suo valore. Ma che ricapitalizzazione vuoi fare se non metti un po' di tranquillità? Vado avanti con i titoli, perché poi Moria vorrei che tu mi raccontassi che cos'è anche l'iniziativa che partirà anche su Radio 24 già alle 19, ma soprattutto su Sole 24 ore da domani, Brexit, l'estate dell'incertezza. Cito gli altri titoli: Finmeccanica più 7%, Finecobank più 6,40, Mediobanca più 5,80, Telecom più 5,20, Exor più 4,90, Intesa appunto più 4,70, Terna più 4,5, come Luxottica, Atlantia ed Enel, Mediolanum il 4% di rialzo. Concludo con chi guadagna più del 3%, ossia Snam il 3,97, Campari pure, Eni il 3,25, Moncler il 3,20. e recordati il 3,15%. Migliori e peggiori in assoluto, Brioschi più 12, The Wind più 12, peggiori Italian Independent meno 13%, Brexit l'estate dell'incertezza. Ma è uno speciale che facciamo da partire da domani mattina, 4 pagine al giorno per 7 giorni, per spiegare in vari settori, con varie angolature, vari punti di vista, appunto le conseguenze di Brexit, ma anche le opportunità, perché soprattutto sul mondo degli investimenti, dei mutui, del mercato azionario, obbligazionario, il mercato immobiliare, ma anche su altri settori come il turismo, come l'università, l'istruzione. Cioè, cerchiamo di fare una cosa ad ampio raggio, per cercare di capire cosa sta cambiando, qual è quali sono i rischi, ma anche quali possono essere le opportunità di questo evento che non era atteso. Allora, grazie intanto a Moria Longo. Giovanni Tamburi, resti con noi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Ho il traffico e poi i consigli suoi intanto agli azionisti, ma anche agli obbligazionisti, come si sta muovendo lei. Ricordo che lei ha una società quotata in borsa che di lavoro cosa fa? Compra quote in altre società quotate in borsa. E quindi mi interessa particolarmente il suo punto di vista. Focus Economia. Beh, under pressure mi sembra il minimo visto il periodo. Allora, Giovanni Tamburi, cosa sta facendo con i suoi investimenti? Che cosa si aspetta? Se vuoi dare un commento anche... tra i migliori oggi c'è pure il Sole 24 Ore, devo dirlo, visto l'aria, più 11%, adesso avrò massacrato, però è il quarto miglior titolo oggi. Allora, dicevo, Tamburi, è d'accordo sull'analisi, sull'intervento di rassicurazione sulle speculazioni sulle banche, e cosa sta facendo lei? Io sto comprando, nel senso che sono convinto che ci sia un eccesso di pessimismo, di isterismo, più ancora che di pessimismo, per cui chi investe sull'economia reale, mi ha fatto piacere sentire quel passaggio prima dell'interlocutore precedente, dall'economia finanziaria un po' isterica, un po' pazza, all'economia reale continua a funzionare abbastanza bene, noi continuiamo a investire e una delle grandi fortune che abbiamo avuto in questi anni è stata negli anni 2008, 2009, 2010, quando tutti dicevano si spacca l'euro, crolla l'Italia, la Grecia porta tutti a fondo, noi compravamo cose. Abbiamo accumulato bene, abbiamo guadagnato abbastanza e continuiamo. Noi approfittiamo di questi momenti sulle aziende buone, sane, che riteniamo promettenti, di continuare a prendere posizioni, aumentare le nostre posizioni. E quindi comprando anche banche? No, le banche, come abbiamo detto negli ultimi tre nostri incontri di fine d'anno, quando si fa le previsioni dell'anno, sono 3 anni che diciamo che dalle banche bisogna stare lontani e purtroppo abbiamo avuto anche ragione. Però al di là di quello che compra lei, Tamburi, cioè, facciamo un ragionamento anche complessivo, nel senso, lei è d'accordo che dall'Europa, dall'Unione, dall'area euro debba arrivare un segnale anche contro la speculazione sulle banche? Cioè, c'è un referendum in Gran Bretagna, i cocci arrivano a Spagna e Italia? D'accordissimo, non c'è dubbio, anche perché, come ha detto Moria Longo prima, è assurdo che ci sia un referendum, dice queste cose qua e le banche nostre crollano. Da dire però, per completezza di analisi, che anche tante banche inglesi stanno crollando molto pesantemente. Però il Bank of Scotland ha perso il 30%, certo. Esattamente, per cui in un quadro completo bisogna dire che si sono anche fatti del male da soli e tra l'altro, come stiamo vedendo, stanno un po' frenando tutti, anche Boris Johnson a questo punto sembra quasi essersi pentito, per cui mezza Inghilterra è pentita ma noi siamo nei guai. Sì, questo è il paradosso. Senta, e allora che cosa sta comprando? Aziende industriali, commerciali, economia reale, come sempre cerco di non far nomi per non influenzare nessuno, ma comunque le aziende classiche dell'economia reale, dell'economia che funziona. Facciamo un esempio di un'azienda che non sto comprando ma ho finito un consiglio di amministrazione oggi pomeriggio, la Beta Utensili, quella dei cacciaviti e delle pizze. Sta facendo nei primi 6 mesi dell'anno più 10%. Meglio in Italia e in Europa che nel resto del mondo, per un'azienda semplice, non così tecnologica, non così avanzata, che sta facendo bene. Tutte le partecipazioni nostre l'anno scorso hanno fatto il bilancio record, stanno andando tutte con il segno più nell'inizio di questi mesi e pertanto vuol dire che l'economia reale non è così stagnante, scassata, distrutta, come a volte si legge o si sente dire anche da grandi economisti. L'economia reale funziona, il mondo cresce tra il 3 e il 4% anche quest'anno. Adesso l'unico timore che abbiamo è che questo effetto psicologico Brexit non rallenti, per cui non inneschi veramente una stagnazione, una recessione, che non ci sono, non sembravano fino all'altro ieri davanti a noi, ma potrebbero arrivare, perché la gente certamente si è spaventata. Sì, e questo è l'effetto che va bloccato. C'è chi mi scrive: guardate che nell'ultimo domani si torna a calare. Non lo so, a me poi il giorno per giorno interessa come notizia giornalistica, mi interessa però anche di più la scelta di medio termine. Tamburi, per quello che riguarda invece altri strumenti di investimento, qui le chiedo al finanziere, non al private equity, lei insomma, come si comporterebbe su obbligazioni, su azioni, su fondi di investimento? Ma allora, le obbligazioni delle corporate, per cui non obbligazioni bancarie, sulle quali non vedo comunque grande rischio, perché l'Europa non può permettersi di mandare a fondo nessuna banca, e per cui bail-in sospeso, bail-in vivente, io credo che le banche italiane sono super protette, saranno super protette, le banche europee saranno super protette, anche perché, come lei ha detto varie volte in questa trasmissione, molte banche tedesche sono messe molto peggio delle banche italiane, per cui io credo che uno tiene l'altro e non vedo grandi timori, per cui obbligazioni bancarie non vedo rischi, non vedo neanche grandi soddisfazioni. Obbligazioni di aziende industriali le vedo interessanti, perché comunque hanno preso qualche colpo negli ultimi giorni, ma sono sicuramente interessanti. Fondi di investimento. Fondi di investimento bisogna cominciare a vedere cosa c'è dentro, perché non è che uno può dire come vanno i fondi in generale. Se un fondo è troppo sbilanciato sull'indice, e gli indici italiani sappiamo che sono molto sbilanciati sulle banche, non vanno bene. Le banche continueranno comunque a performare male nei prossimi mesi, anche se ci saranno salvataggi, scudi, paracaduti, eccetera, eccetera. Fondi di investimento che invece sono dedicati alle aziende industriali, alle aziende tecnologiche, alle aziende magari innovative o cose di questo genere, sicuramente possono dare ottima soddisfazione. Quindi lei dice andate a guardare poi la parte dell'economia reale. C'è qualche settore, allora qualcuno insiste nel chiedermi che lei dia i titoli. No, glielo proibisco io a Tamburi di dare i titoli, perché in questo programma in 16 anni non abbiamo mai dato un consiglio su un titolo, perché quello si chiama macelleria, diciamo, non si chiama fare informazioni. Poi va, ci sono i promotori, si assume il rischio e adesso lo diamo noi il titolo. Però detto questo, i settori sì mi interessano, e poi che ne so io del mio interlocutore se non mi dia un titolo pro domo suo. Ma ragazzi, mi state scherzando, capisco la voglia di a darci due titoli Barisò, ma non funziona così. Dica invece i settori. Settori: metalmeccanico, commerciale, industriale, materie prime, tecnologia. Starei fuori da real estate, starei fuori dalle banche e starei fuori da tutta quella parte di aziende che vivono di tariffe amministrate, per cui utilities o cose di questo genere qui, perché sono anche quelle soggette alla politica. Per cui io farei una distinzione molto forte fra gli industriali da una parte, le quattro categorie che ho detto prima, e immobiliari, finanziari, eccetera, dall'altra, che guarderei con molto sospetto. Quindi no utilities, che vuol dire tutti quelli che forniscono servizi, no banche, no finanziarie, no immobiliare. Grazie anche a Giovanni Tamburi, amministratore delegato della Tamburi Investment Partners. Allora, cos'è il paradosso di Wimbledon? Dobbiamo chiudere però. Il paradosso di Wimbledon fu citato da Tommaso Padoa-Schioppa in un famoso articolo, se non ricordo male, e cioè il fatto che la Gran Bretagna, in maniera molto intelligente, abbia sempre preferito avere il miglior torneo di tennis al mondo più che avere il miglior giocatore di tennis al mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Gran Bretagna si è sempre avvantaggiata di creare il contesto in cui tutti venissero a lavorare lì, perché Londra era il posto più dinamico dove lavorare, sfruttando quindi i cervelli formati e preparati da altri stati, più che avere la necessità di avere un inglese per forza al comando, magari nemmeno capace. Questo vuol dire il paradosso di Wimbledon: meglio che il tuo posto sia il posto migliore dove competere, non chi se ne frega se non ci sono italiani o inglesi al vertice. Bianco il Fagian, la spiego un'altra volta, non ha nessun senso, è che è una vecchia maglietta di un fagiano che era un po' l'equivalente di quello che si dice in americano quando il tacchino non chiede di anticipare il Natale. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.